Ciao Marta, grazie a Onda Radio Onda Rosa nuovamente per questo spazio per parlare della lotta del popolo Mapuche. Grazie a voi anche perché insomma siete una colonna per me per fare tutto questo. E allora adesso bando ai ringraziamenti, alle sdolcinerie e invece niente, abbiamo parlato di questa settimana molto importante per quanto riguarda diciamo il caso Looking and Mackay in due diciamo diversi fronti. Il primo è la condizione importante, grave, non solo di salute e di condizione fisica e umana in cui si trova il Maci Celestino Cordova, ma direi anche la negazione di un diritto sancito anche a livello internazionale, che è quello che il Maci si possa recare appunto nel suo Rewe, che è un terreno, credo, no? Dove lui può rinnovare il suo spirito, la sua forza. E dall'altra parte il fatto che in questo processo vennero assolti la Maci Linconao, altri 10 comuneros che invece vedranno sabato le ringhe finali, se non sbaglio, e quindi si saprà poi della loro assoluzione o meno. Sì, ma sì, devo fare una correzione, lo puoi fare. Una correzione, sì, devo fare una correzione prima che qualcuno si chiami, perché la ringhe di sabato non sono per il caso Looking and Mackay, la ringhe di sabato sono per il caso Iglesia. È vero. Hai ragione, sì, hai ragione. Quello è da chiarire, però comunque ci sono le ringhe che anche sono molto importanti, perché un altro caso molto molto importante dentro le diverse situazioni che stanno affrontando i nostri compagni e le nostre compagne del popolo Mapuche. Quindi sì, diciamo che questi due processi si somigliano molto per assurdità nel montaggio, no? Sì, sì, quello voleva dire, che comunque c'è sempre il filo in comune, non solo di questi due casi, ma di tanti casi che sono i montaggi giudiziari che, già che l'abbiamo nominati, in questi mesi stanno venendo fuori le cose veramente atroci, veramente schifose da parte dello Stato cileno, della polizia di investigazione e dei carabinieri di Cile, come sono coinvolti in diversi montaggi giudiziari. È stato comprovato attraverso un giudice che ha inviato a fare varie investigazioni e anche a fare perquisizione dentro diciamo degli uffici dei carabinieri, perché c'è la chiara intromissione, la chiara manipolazione di tutti questi apparati repressivi dello Stato cileno. E soprattutto dentro di telefonini di compagni e di compagne Mapuche, e anche abbiamo saputo anche stanno monitorando anche lo che sono le reti di solidarietà come noi, e qua è venuto fuori lo che sempre hanno detto i nostri compagni e le nostre compagne, che lo Stato cileno criminalizza il popolo Mapuche attraverso queste infami, come si dice, azioni, manipolazioni, montaggi che ancora una volta oggi sono pubblici, sono comprovati, sono confermati di quanta colpevolezza, quanto hanno fatto per, come nel caso Iglesias, che già è comprovato, che uno dei carabinieri che che stava seguendo questo caso è uno di quelli che è incriminato dentro della, come si dice, dei montaggi giudiziari, quindi è quello che anche lo che dice il Maci Celestino, anche lui che lo continua a dire dall'inizio, che il suo caso è sempre opera dei montaggi giudiziari, della manipolazione delle prove del potere giudiziale attraverso carabinieri del Cile e la polizia di investigazione. Sì, tra l'altro sappiamo che diciamo in parte sono mi viene da chiamarli montaggi legalizzati, no? Nel senso che in Cile la giustizia cilena si avvale della legge antiterrorismo, che prevede delle cose assolutamente anticostituzionali per un paese che si definisce una democrazia, no? Quindi la possibilità di avere testimoni incappucciati, e sappiamo anche quanto invece e quindi queste cose risultano poi legalizzate in questa legge antiterrorismo che il nuovo presidente Piñera, che sappiamo insomma, probabilmente inasprirà molto sia a livello giuridico che repressivo la repressione verso la resistenza mapuche, no? Questo mi sembra ormai ovvio, ma non solo, sappiamo che sta riaprendo tantissimi processi anche al di là del popolo mapuche, anche rispetto a questioni che sono successe durante la dittatura, prima, dopo, durante, di persone che hanno resistito, che sono poi andate via lontano per non dover pagare con il carcere. Quindi diciamo Piñera sicuramente da questo punto di vista si sente un po' il nuovo giustiziere della fase B della dittatura. Dall'altra parte però sappiamo anche quanto spesso comuneros stessi vengono obbligati sotto minaccia a testimoniare la colpevolezza dei loro compagni e poi trovano il coraggio invece di cambiare la propria testimonianza, probabilmente anche spinti dalla resistenza degli imputati stessi. Insomma, qui parliamo del Maci Celestino Cordova, che ha 90 giorni domani, forse anche di più, di sciopero della fame, e sappiamo quanti altri compagni hanno usato questo mezzo proprio da una parte per dimostrare che appunto la resistenza mapuche non si ferma col carcere, ma anche perché slegare il mapuche dalla propria terra è un omicidio, insomma è una sorta di lenta tortura per far poi spengere questo legame ancestrale di vita con l'uomo, con la terra. Sì, esattamente, hai detto molto bene, soprattutto il discorso su Piñera, che dopo due settimane che ha preso il mando di questo governo, si è fatto vedere subito nella regione dell'Araucania, che diciamo che è la regione più popolata delle comunità mapuche, e da lì ha mandato il suo comunicato a tutta la nazione cilena parlando di queste modifiche alla legge antiterrorista, che ovviamente sono leggi che vanno ancora di più a criminalizzare il popolo mapuche, e come dici te si stanno riaprendo tanti altri casi della dittatura, che ovviamente lui, essendo un discepolo di Pinochet, conosce molto bene e le farà onore sicuramente al suo padre politico, per dire così, no? Certo. Venendo al caso di Maci Celestino è stato condannato quando c'era il primo mandato di Piñera nel 2013, e oggi il Maci Celestino si trova in questa fase così complicata e difficile, dove di nuovo riprende il governo di Sebastián Piñera, no? Ma qua la cosa è un'altra. Nel caso del Maci Celestino Cordova, come in altri casi del popolo mapuche, come dicevi te, domani sono 90 giorni da quando lui ha iniziato lo sciopero della fame, costretto, già che le sue richieste precedenti non sono state mai ascoltate dal popolo dello Stato cileno. Sì, ricordiamo che martedì questo proprio è stato sì, respinto, sì, l'ultimo ricorso. Sì, perché lui, quando è stato condannato a questi 18 anni per questo incendio, questa coppia di coloni nel sud del Cile, e dall'inizio se le ha negato qualsiasi beneficio, è stato stipulato subito che lui non avrà mai un diritto a chiedere dei benefici. Però la contraddizione qua è che in questo caso il fatto che lui, spieghiamo, come autorità, che è una parola che non ci piace usare, diciamo come figura spirituale del popolo mapuche, non è che sta chiedendo, non che sta facendo una petizione o sta chiedendo un favore allo Stato cileno. Lui, come altri mapuche, stanno appellando a una convenzione che è stata firmata e ratificata dallo Stato cileno nel 2008, e questo è molto importante, la convenzione 169 della OI, che quella lì obbliga alle responsabilità legali che devono assumere i governi che la firmano, come lo Stato cileno, nella protezione ai diritti dei popoli originari come popolo mapuche, e deve garantire la integrità e il rispetto all'identità culturale, religiosa e spirituale, alle tradizioni, anche se questi sono privati della propria libertà, capito? Sì, quindi anche agli arresti gli deve essere data la possibilità di poter svolgere appunto questo. Infatti si è scritto anche se sono privata della propria libertà, che è il caso del Maxi Celestino Cordova. Lui ha il diritto di recarsi al suo Rewe, che è lo spazio spirituale dove lui, come diceva te, visto, si nutre, rinnova le energie e dove fa le sue cerimonie. Quindi è un diritto che si sta chiedendo ancora una volta per questa convenzione che è stata firmata e ratificata dallo Stato cileno nel 2008, e ancora una volta lo Stato cileno viola e vulnera i diritti del popolo Mapuche. Qual altra cosa? Che questa convenzione è stata firmata nel 2008 e scade nel 2018, quindi questo anno. E il signore Piñera ha detto che sicuramente lui non la ratifica. Quindi qua abbiamo un altro, diciamo, un altro schiaffo alla che loro chiamano la democrazia dello Stato cileno, no? Perché una volta che scade questo convegno, che diciamo che nella pratica non è stato mai rispettato, quindi non lo so quanto cambierà, no? Però vuol dire che se non viene ratificata nel 2018 del governo di Piñera, non si potrà neanche fare appello a questo convegno. Diciamo, avranno una scusa in più per non rispettare i diritti del popolo Mapuche. Senti, io appunto so che proprio riguardo al Maxi Celestino Cordova ci sono molte mobilitazioni in giro per il mondo, non solo in Cile e in Sud America, e ti chiedo se si può fare qualcosa, se chi ci ascolta può, così io so che c'è qualcuno per esempio si fa una foto con un cartello, se c'è un modo in cui semplicemente si può partecipare all'indignazione per questa cosa. Sì, sì, certo, è molto importante quello che dice, perché con motivo che domani sono 90 giorni dello sciopero della fame del Maxi Celestino Cordova, dopo 5 anni che è in carcere in un processo illegale totalmente manipolato e costruito dallo Stato cileno, come dicevamo prima, il suo collettivo di sostegno al Maxi Celestino Cordova in Cile ha convocato diverse mobilizzazioni in diverse città del Cile e anche all'estero. Ho visto che sono diverse chiamate a Stoccolma, a Madrid, a Barcellona, in Australia, in Canada, dove si andranno a manifestare davanti all'ambasciata del Cile. E ci sono anche altre proposte, che quella che sicuramente faremo noi, di mandare un saluto, un audio, un video, un messaggio o anche questi cartelli esigendo, non parliamo della libertà, perché la libertà non si chiede in questo momento, soprattutto a uno che è stato condannato a 18 anni. Lo che si chiede in questo momento è precisamente il rispetto di lui come figura spirituale del popolo Mapuche, e che almeno una volta questo convegno sia rispettato se parliamo legalmente dell'aspetto legale per lo Stato cileno, fare questi cartelli, una foto per il Maxi Celestino, per avere questo questa possibilità di andare alla sua comunità e fare le sue cerimonie e fare tutto quello che è competente a un Maxi, è lo che è il popolo Mapuche. È quello che stiamo facendo come rete a Milano e a Roma, che faranno anche i nostri compagni ad Hamburgo, per domani farvi sentire a loro, soprattutto sentire al Maxi, che non è da solo, che rivendichiamo come lui lo sciopero della fame, che mi porta avanti con quanta dignità, che ha detto in questi giorni che lui è disposto anche a morire. Si le viene ancora, perché questa settimana gli è stato negato attraverso di un ricorso di protezione per andare al Rewe, le è stato negato di parte del tribunale di Temuco, e quindi lui ha detto che lui è disposto a morire se non le viene concesso il suo diritto di andare alla comunità a avere 2 giorni per stare in contatto con la terra e con la natura. E quindi noi ancora una volta siamo a fianco a un prigioniero politico Mapuche che le viene applicata questa infame legge antiterrorista, e come dice lui, che ricordare che dentro del popolo Mapuche la resistenza non è solo politica, e per il popolo mapuche la resistenza è anche spirituale, e noi anche piano piano l'abbiamo capito, essendo solidari di questa lotta, perché non è facile da capire per chi non vive, diciamo, la cultura del popolo mapuche. E rivendichiamo ancora una volta che la lotta e la resistenza è la unica forma che rimane per avere questa libertà e questo rispetto per la propria vita. Geraldine, io ancora una volta ti ringrazio tantissimo, quindi esorto, così tra le tante cose che facciamo con questi maledetti telefoni, ci vuole veramente un attimo a farsi una foto con scritto esigo il diritto del Maci Celestino a recarsi al suo reue. Quindi ecco, tra tante fesserie che ci facciamo con questi telefoni, cerchiamo anche di usarli una volta in maniera utile, di spendere 5 minuti in maniera utile. Io ti ringrazio tantissimo, noi chiudiamo che siamo un po' in ritardo, già il Mezzedes preme, ti abbraccio, noi comunque ci sentiamo presto. Sì, anche grazie a te per tutto quello che fai, perché anche tu sei importantissima in questa rete di solidarietà e resistenza al popolo mapuche, e andiamo avanti con questa lotta fino alla vittoria. Maricihueu, come dicevano loro, 10 volte venceremo. Maricihueu, Geri. Maricihueu. Grazie. Ciao. Ciao, ciao.